And even if he did, he wouldn't comprehend them. I've dwelt among the humans. Their entire culture is built around their penises. It's funny to say they're small. It's funny to say they're big. I've been at parties where humans have held bottles, pencils, thermoses in front of themselves and called out, "Hey, look at me, I'm Mr. So-and-so dick. I've got such and such for a penis." I never saw it fail to get a laugh. All right, that's enough. You guys are talking about my species. We understand genocide. We do it sometimes. Go Hell, Paul Very. Radio Bomba. A che ora le vite di Laura Marx e Paul Lafargue si spensero non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che scelsero loro, liberamente, di andarsene quella notte tra il 26 e il 27 novembre 1911. Non erano malati e neppure depressi, non avevano problemi economici e nemmeno la giustizia alle costole. Semplicemente decisero di esercitare quello che sentivano essere un loro diritto inalienabile: abbandonare questa vita come e quando volevano. Lasciarono questo mondo dopo una giornata piena di serenità e allegria in cui erano stati al cinema e avevano visto le persone a loro più care, che, totalmente ignare di ciò che sarebbe avvenuto, li trovarono particolarmente felici e tranquilli. Il mattino seguente i loro corpi senza vita furono ritrovati dal giardiniere di casa. Avevano rispettivamente 66 e 69 anni quando, con un'iniezione ipodermica di acido cianidrico, misero fine alla loro esistenza, senza mettere però fine al loro amore. Quell'amore che aveva portato Paul a corteggiare Laura, la figlia di Karl Marx, il padre del socialismo scientifico, che lo bollò come un testone prudiano. Quell'amore che aveva portato Laura a scegliere Paul, quel ragazzo dal sangue misto, ebreo e francese, tra tutti i suoi pretendenti, e sposarlo e a restargli sempre accanto. Quell'amore che li aveva fatti vivere insieme per più di 40 anni e superare momenti terribili come la prematura scomparsa dei figli. Un amore che li unì nell'ultimo atto della loro vita terrena, quando insieme piegarono il destino imponendogli ora giorno e mezzo della propria morte e con parecchi decenni di anticipo posero davanti al mondo una questione che ancora non abbiamo risolto: il diritto alla morte volontaria. Vicino al letto di Paul, un foglietto testamento in cui, oltre a rinnovare la sua fede nella rivoluzione, scriveva testualmente: "Sano di corpo e di mente, mi uccido prima che la vecchiaia impietosa, che mi tolse a uno i piaceri e le gioie dell'esistenza e che mi spogliò delle risorse fisiche e intellettuali, non paralizzi la mia energia e non spezzi la mia volontà, facendomi divenire un peso per me stesso e per gli altri." Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebile e rinnovata memoria. Ehi, buonasera, bentornati e bentornate all'ascolto di Fuoco alle Polveri. Siamo su Radio Wombat, lo saprete, gli indirizzi li sapete, non ve li diamo. Qui abbiamo in regia un grande drago in grande forma. Oh. Tuco, l'avete sentito, Grippo è appena arrivato di corsa salendo una bellissima scala. E poi abbiamo tanti ospiti, Akkad, li sentiremo fra pochissimo con un'intervista e naturalmente la presentazione, come già annunciato, dell'ambulatorio popolare. Attesissima. Attesissima da tutta Firenze, si può dire, vero? Drago? Ah, oh, lui concentrato. Lui concentrato. Sto facendo regia, non mi puoi interrompere. No, dicevo, ci mandi un pezzo? Certo. Grazie. Wombat. Wombat. She got the hottest Non ci parlate di mele marce, non ci parlate di casi isolati. La divisa è abuso, è prepotenza, vigliaccheria. È parte integrante di un sistema marcio che inizia con i depistaggi e finisce con le assolzioni. È impunità. La vostra sicurezza uccide, stupra, discrimina, molesta. Questo è quanto appare su un comunicato di ACAD datato 16 novembre, quindi veramente 10 giorni fa, riguardo a un fatto, diciamo alla sentenza del caso Magherini, sentenza che va ad assolvere in toto i 3 carabinieri imputati per ciò che è successo. Benvenuta a Carlotta, attivista di ACAD. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, benvenuta su Fuoco alle Polveri. E iniziando subito da ACAD, di che cosa è, di che cosa si tratta? Allora, ACAD è di fatto un'associazione, una onlus, che si formalizza nel 2014, dopo già un bel po' di anni di attività, diciamo, di ragazzi attivisti, per lo più militanti, che si erano riuniti sulla scia del caso più emblematico degli anni, che fu il caso Aldrovandi, uno dei primi casi ad essere portati in aula di tribunale e per cui, insomma, si sono verificate anche delle belle scenografie da parte dei sindacati di polizia proprio in aula di tribunale, quindi si assiste proprio a quello che è il calvario delle famiglie, diciamo, che poi si decidono a lottare per avere la verità, insomma, perché poi di giustizia non si può decisamente parlare, nemmeno noi ne parliamo molto volentieri, siamo molto coscienti che quando andiamo in un'aula di tribunale non ci andiamo certo per trovare giustizia, ecco. E il problema è la divisa. Cosa rappresenta questa divisa? Allora, purtroppo al giorno d'oggi quello che rappresenta la divisa è di fatto che una continuazione, un braccio armato di quelle che poi sono le legislazioni di uno Stato che impunemente continua ad autoassolversi. Questo lo vediamo sempre con le varie sentenze, lo abbiamo visto il 15 di novembre con la totale assoluzione dei 3 carabinieri che erano già stati condannati in 2 gradi di processo per la morte di Riccardo Magherini. Siamo coscienti anche qui del fatto che non si può parlare di mele marce, come tu hai giustamente detto inizialmente, ma è tutto il cesto che alla fine è marcio, si parla di legislazione, insomma. Ecco, cioè, ma l'opinione pubblica cosa si aspetta? Che cosa si aspetterebbe almeno dalla divisa? Chiaro, dalle divise, perché poi parliamo, certo, di divise. Le persone in generale si aspettano comunque di essere difese, credono di trovarsi nelle mani sicure di chi le difende, o comunque sono quei capisaldi, no, della vita, e come ti puoi ritrovare, pensa giusto appunto alla famiglia Magherini, una famiglia totalmente magari al di fuori anche delle dinamiche in cui poteva essersi trovato uno Stefano Cucchi o un ragazzo come Federico Aldrovandi o un qualcuno che comunque come Aldo Bianzino per esempio si è ritrovato a morire perché era stato arrestato, quindi si trovava in carcere. Ti trovi di fronte a delle contraddizioni che è difficile accettare, è difficile mandare giù. Quindi il nostro lavoro è anche, oltre a non far sentire sole le famiglie, cercare di portarli in un processo, accompagnarli in un processo di accettazione che poi ti dovrebbe anche riuscire a dare una visione un po' più ampia del fatto che questi episodi non accadono solamente a qualcuno in particolare, ma che può accadere proprio a tutti. Ecco, il caso Magherini è emblematico perché, poi correggimi se sbaglio, ma era il 3 marzo del 2014 quando Riccardo Magherini in Borgo Sanfrediano di fatto chiedeva aiuto per delle difficoltà che magari può darci delle precisazioni, però questo aiuto di fatto si è trasformato in una chiamata alla stazione dei Carabinieri di Borgo Ognissanti con l'arrivo di una volante e poi di una successiva seconda volante e poi infine con l'arrivo di un'ambulanza senza neanche il medico. E che cosa è successo? Allora, quello che è successo quella notte lo sappiamo solo in parte, anche grazie ai soliti meccanismi, come dicevi giustamente prima, di depistaggi e insabbiamenti. Sappiamo che Firenze è cosparsa da cima a fondo di telecamere a circuito chiuso, sappiamo benissimo che queste telecamere vanno richiesti filmati non almeno una settimana, almeno entro una settimana dal giorno che si vuole vedere, perché sennò automaticamente si autocancellano. Ecco, a noi ci manca un importante pezzo di quella notte, noi non sappiamo perché Riccardo scappava, sappiamo che scappava dalle testimonianze testimonianze di varie persone, sappiamo che chiedeva aiuto, sappiamo che qualcosa l'aveva impaurito. Lui era chiaramente in una situazione di agitazione e stress emotivo altissimo, tanto che a un certo punto fa irruzione in un bar per chiedere un cellulare, per chiedere di poter chiamare, sempre per chiamare aiuto. E quando vede i carabinieri che gli si avvicinano, lui gli corre incontro, si mette in ginocchio a terra e dice: per favore aiutatemi, mi vogliono ammazzare. Quindi qui siamo di fronte proprio a un gesto di un uomo, un gesto quasi disperato di un uomo che chiede aiuto, e di un uomo che quando viene immobilizzato a terra non pensa altro che al figlio. Quindi diciamo che proprio già si poteva evincere, no? Già avrebbero dovuto essere in grado di evincere dalle sue condizioni psicofisiche che la manovra che poi gli è stata applicata, ovvero il metterlo supino a terra con le braccia legate dietro la schiena e bloccarlo da dietro, gli avrebbe potuto compromettere chiaramente la respirazione. Poi è quello che è successo. Manette che non sono state tolte neanche per fare il massaggio cardiaco, per la rianimazione, esatto, di Riccardo. È stato impedito ai volontari della Croce Rossa di avvicinarsi a Riccardo, mentre Riccardo probabilmente era già morto. Però cosa è successo? La morte effettiva di Riccardo dove è stata dichiarata? In strada? No. È stata dichiarata in ospedale. Questo serve a togliere di fatto tutta la responsabilità dalle spalle dei pubblici ufficiali in questo caso e addossarla a tutti i volontari, insomma al personale infermieristico. Sì, è stata dichiarata, anche se ci sono delle interviste, ci sono delle registrazioni degli operatori sanitari che parlano della morte di Magherini sull'ambulanza. Esatto, probabilmente era già morto prima di salire sull'ambulanza, invece, esatto. Non gli era stato permesso di avvicinarsi per accertarlo. I testimoni ce ne sono diversi, si dice 14, si dice 16, ma pare che ce ne siano ben di più, e anche loro non sono stati trattati proprio bene. Sono state accertate delle minacce, soprattutto per quanto riguarda testimoni che erano alcuni venditori ambulanti, quindi sono stati sicuramente minacciati, hanno avuto paura anche poi per quello che si crea questo divario linguistico, insomma sono stati rintracciati, c'è stato cercato di parlarci di nuovo, ma hanno addirittura detto di non saper parlare italiano, quindi immaginiamoci quanto possano essere stati spaventati anche di fronte a questo. Ci sono, sì, ci sono stati casi simili da allora fino adesso? Allora, della portata di Riccardo Magherini, dopo la morte di Riccardo Magherini c'è stata a Napoli la vicenda che ha visto l'uccisione di Davide Bifolco, un ragazzo di 16 anni che si trovava in motorino con altri due suoi compagni. Davide Bifolco è morto per dei colpi di proiettile, gli sono stati sparati ad altezza uomo ed è stato cercato di giustificare questo avvenimento col fatto che lui era stato identificato come un latitante. Di conseguenza si è in corso in vari processi, la famiglia Bifolco era una famiglia totalmente indigente, per cui come associazione, questo è un altro degli obiettivi che ci prefiggiamo, quando si arriva a dei casi in cui la famiglia non è in grado di supportare economicamente le varie perizie o comunque processi in generale, si ricorre prima di tutto al gratuito patrocinio da parte dei legali. Seconda cosa di poi, abbiamo provveduto a raccogliere noi stessi i fondi necessari per portare a termine le perizie, perché quando si parla di sparatorie ci sono tutta un'altra serie di perizie balistiche, accertamenti, rilevamenti sul territorio che costano tantissimo, oltre alle perizie mediche già costano tantissimo anche quelle. Ecco, il gratuito patrocinio, fra l'altro ora l'hai nominato, mi viene in mente che è regolamentato, nel senso che deve, sì, avere un determinato reddito che di fatto è bassissimo. Ma e se te, ad esempio, se non mi sbaglio circa 11.600 euro o qualcosa del genere, quindi anche comunque un reddito di 12.000, 13.000, 15.000 sono pochi per sostenere tutte le spese legali in questi casi qua, immagino. Sì, sì, sì. Anche perché si parla di battaglie che possono andare avanti anche per decenni. Quindi se non sei una famiglia, insomma, che alle spalle può essere supportata anche da terzi, diventa problematico. Sì, diciamo, e noi ci proponiamo sempre, abbiamo la nostra cassa di aiuti, quindi col tesseramento annuale, essendo appunto un'associazione, i tesseramenti vanno tutti lì a rimpinguare quella che poi è la cassa a cui viene dato fondo quando ce n'è bisogno, a prescindere poi da quello che è legalmente attestabile dai redditi, insomma. Ecco, e tornando al caso Magherini, c'è stata la sentenza che era il 15 novembre, sì. Vi è stata stato una manifestazione anche insomma, per questi motivi il 17 a Firenze, vi è stato un presidio il 18. Se ce le puoi raccontare e magari se ci puoi dire anche quali saranno i prossimi passi, sia per la famiglia che per voi nei confronti di questo caso. Allora, il 15 dicembre c'è stata la sentenza di terzo grado, quindi la Corte di Cassazione a Roma, e abbiamo saputo, pensate un po', questa è una chicca, non sapevamo nemmeno noi, si può pagare direttamente colui che, diciamo, poi pronuncerà la sentenza per saperla prima, ok? Quindi te pensa, ogni giorno emettono circa 23 sentenze la Cassazione, vengono pagati 20 euro ogni volta per saperla prima, in anticipo, quindi anche questa è una cosa già che ci aveva sconvolto. Cosa è successo? Ritornando a noi, la sentenza di Cassazione ha totalmente ribaltato quelle che poi erano state le due sentenze di primo e secondo grado, quindi che vedevano condannati i tre carabinieri per omicidio colposo. Le condanne erano già certamente sconvolgenti, si parla di 7-8 mesi. Ridotti, fra l'altro, ho visto 8 mesi, sì, per colui che era stato attestato di aver dato i calci, quindi per le percosse. E noi ci siamo rimasti particolarmente di sasso, di merda, per non dire di merda. Puoi dirlo. Posso dirlo, di merda. Perché comunque è raro che una sentenza di Cassazione ribalti totalmente così. Ecco, i calci, parliamo di lo sterno rotto, costole rotte, ecchimosi, esatto. Lividi, quindi emorragie interne al fegato, quindi insomma, esatto. Fatto, insomma, esatto. Roba non proprio leggera. La motivazione è che il fatto non costituisce reato, quindi si accerta che il fatto è avvenuto. Ricordiamo la sentenza di appello per quanto riguarda il primo processo Cucchi, si concluse con il fatto non sussiste. Qui invece il fatto sussiste, ma non comporta un reato, quindi la condotta dei carabinieri non è punibile. Impeccabile. Impeccabile, sì. Beh, vabbè. Per quanto... no comment. E quindi dicevi il corteo del 17. Sì, il corteo del 17 è stato un buon momento per portare in piazza anche questi contenuti qua. Diciamo che c'è stata una puntualità incredibile, perché proprio due giorni dopo la sentenza, quindi siamo riusciti a portare in piazza anche Andrea Magherini, il fratello di Riccardo, che nonostante fosse totalmente a pezzi è riuscito a parlare davanti a una folla di persone smisurata. E diciamo che comunque è stato importante anche per portare a livello mediatico fuori la cosa, no? Quindi siamo anche riusciti a tenere abbastanza alto il livello del corteo, che ricordiamo era un corteo contro il DDL Salvini. E questo ha dato il via a una serie di manifestazioni, per quanto ci riguarda, partite insomma da noi, tra l'altro parliamo infatti anche del 18 a Roma, una manifestazione che non si è nemmeno compiuta di fatto, perché i nostri attivisti sono stati fermati, bloccati, sequestrati, gli è stato sequestrato il materiale ancora prima che potessero, diciamo, mettere in piedi la scenografia, e questo ci dà anche una poi misura. Non era una vera manifestazione, era non era un una presidio. Vera, esatto, è stata definita una manifestazione, ma di fatto sarebbe stato solamente un presidio e sarebbe stato appeso uno striscione e fatta una proiezione. Quindi niente di così eclatante. Neanche il dissenso si può esprimere. Neanche il dissenso. Siamo nell'era di Salvini. Siamo nell'era di Salvini. Ci arriviamo, non ti preoccupare. Senti, ma io una domanda te la volevo fare, perché c'è una curiosità, se così vogliamo chiamarla, che il comando dei carabinieri, insomma la pattuglia dei carabinieri che poi ha soccorso, fra molte virgolette, Magherini, proveniva da, era a distanza alla centrale di Borgo Ogni Santi. Centrale che abbiamo avuto sulle prime pagine dei giornali, soprattutto fiorentini, ma anche nazionali, per un altro caso avvenuto nel settembre del 2017 davanti a una pattuglia che andò a risolvere, diciamo, la rissa o la presunta rissa davanti al Flow, e che poi riaccompagnò a casa le due studentesse americane, e poi sappiamo bene quello che è successo. Quindi è un caso questo, oppure, voglio dire, c'è un certo senso di impunità in particolare in quella caserma? Il senso di impunità è evidente, pensiamo sempre allo stesso discorso che abbiamo fatto prima, cioè identificare questi personaggi come mele marce purtroppo è riduttivo se non insensato. Ridicolo. Quindi dobbiamo pensare a come questi funzionari vengono istruiti, quelle che sono le direttive che vengono imposte dall'alto, quelli che sono comunque i loro modi di agire, i loro modi di operare. Quindi si va a ricercare, dovrebbe essere fatto proprio una ricerca psicologica, per quello che penso io, appunto dato il fatto che riponiamo poi nelle forze dell'ordine pubblico tutta questa grandissima fiducia. Ecco, fra l'altro, ora questa è una curiosità, perché veniamo fuori dalla sentenza, nemmeno dalla sentenza, dalle dichiarazioni sul caso Cucchi, e quindi questo grande terremoto, si può dire, dal punto di vista delle forze dell'ordine. Ho letto, mi è capitato di leggere articoli che dicevano che le forze di polizia stanno cercando di mettere toppe a queste cose qua, nel senso che hanno introdotto dei programmi di educazione, di formazione all'interno delle scuole sottufficiali, per cercare di arginare questi problemi. Può essere, non so, ne sai qualcosa? Può essere una soluzione? No, non lo sapevo, me lo stai dicendo te e mi fa un po' sorridere. Penso che siano un po' fuori tempo massimo, penso che i problemi siano da ritrovarsi a livelli... Possiamo risalire fino al ventennio fascista, cioè solo a pensare al fatto che comunque le leggi che ci ritroviamo, per cui veniamo magari anche, ci prendiamo le denunce eccetera, sono leggi regi del ventennio fascista, del codice Rocco, quindi pensiamo che tutto quello che abbiamo ereditato dal ventennio fascista nelle questure si ritrova, e si ritrova anche nell'educazione che poi viene impartita ai funzionari appunto dell'ordine pubblico, quindi penso che sì, si debba poter dare anche un supporto psicologico ai vari funzionari, cosa che non viene fatta, una cosa che ho scoperto tristemente. Chi chiede il supporto psicologico, che sia dell'arma dei carabinieri o comunque della polizia, viene automaticamente stromesso dall'arma, viene deposto, perché effettivamente probabilmente non è in grado di sostenere il proprio lavoro. Esatto, quindi nemmeno il supporto psicologico. Sono dei superuomini. Sì, sì. Senti, tornando a voi, avete novità che state per presentare all'Italia, si può dire, perché avete già iniziato a fare alcune presentazioni, ma ne sono previste altre di questo famoso Vlad. Si è aperta questa collaborazione favolosa, a dir poco favolosa, con Alter Ego, la fabbrica dei diritti. Alter Ego sono un collettivo di giovani romani, per lo più avvocati, giuristi, tutti comunque attivi, militanti, chi più chi meno, però comunque siamo, diciamo, alle porte di una collaborazione molto importante secondo noi, perché di fatto il Vlad, questo vademecum legale contro gli abusi in divisa, è una continuazione, quindi è un altro strumento che si aggiunge alla lotta contro gli abusi in divisa, perché mira a una formazione dal punto di vista legale, proprio una formazione che ci aiuterà, dovrebbe aiutarci, per insomma riuscire a conoscere quelli che sono i nostri fondamentali diritti, tutti anche quei cavilli, un sacco di cose che magari possono sembrare insignificanti ma che noi non sappiamo e con le quali ci possiamo difendere. Ecco, allora, non è ancora uscito, uscirà a breve, giusto? Sì. Dove lo potremo vedere, trovare? Allora, sul sito, sentire. Sicuramente, stiamo programmando varie iniziative. Diccelo però il sito. Sul sito di Alter Ego, Fabbrica di Diritti. C'è okay. Proprio il sito web, c'è anche la pagina Facebook. Poi le modalità non sono ancora di dominio pubblico, però uscirà a breve. E diciamo saremo presenti in tutta Italia per presentarlo, non abbiamo ancora la calendarizzazione della Toscana, però sarà sicuramente da dicembre in poi. L'unica data per ora fissa che sappiamo, insomma, ce l'abbiamo, è il 22 di dicembre al Tortuga in Valsusa. Non è molto comodo, però chissà al nord. Vabbè, però dai. Senti, ma è un vademecum, quindi è indirizzato a tutti e certo. Tutte, quindi sarà, immagino, dettagliato ma comprensibile. Sì, sarà esatto, quello non è da poco. Ah, perché la materia giuridica non sempre è addomesticabile. E infatti è proprio anche per questo motivo che viene scritto da sono avvocati, giuristi, ma sono ragazzi, sono studenti, quindi diciamo che l'obiettivo è anche quello, è riuscire a rendere digeribile ciò che agli occhi di uno che non studia giurisprudenza è un aramaico antico, insomma, sta roba qua. Quindi dacci qualche pillola di questo vademecum. Io volevo chiederti intanto a caso, perché poi non l'ho letto, quindi però l'identificazione come funziona? Allora, l'identificazione può avvenire per i motivi più disparati, nel senso puoi anche essere fermato anche solo perché ti conoscono, ti riconoscono e quindi ti vogliono fermare, ti vogliono tenere lì un po'. Ecco, quello che si può fare anche per, diciamo, rendere i tempi, accelerare i tempi o comunque far decadere quello che può essere un banale fermo, può essere quello di richiedere un verbale in cui si attestano i motivi reali per cui tu vieni fermato. Questo è un nostro diritto, bene saperlo, perché giustamente dal momento in cui siamo di fatto privati della nostra libertà personale è bene che lo sappiamo il perché, no? È bene che ci abbiamo un foglio che lo attesta, un verbale, e di fatto spesso e volentieri non c'è nemmeno tanta voglia, non c'è il motivo, non c'è il tempo di rilasciare questo verbale, magari appunto può essere che la cosa si sbrighi molto più in fretta delle solite 3 ore simpatiche e poi passi lì e... simpatiche. Senti, invece riguardo alle misure preventive, non lo so, mi viene in mente il DASPO urbano. Per quanto riguarda il DASPO urbano, vi leggo direttamente una pillola, sì. Le pillole si possono trovare sia sulla pagina di Alter Ego, la fabbrica di diritti, sia sulle varie pagine degli eventi di presentazione del VLAD. Il DASPO urbano è una misura amministrativa che consente al sindaco, con un'ordinanza, di allontanare da un luogo specifico un soggetto reputato socialmente pericoloso per 48 ore. In caso di violazione di tale obbligo, il questore potrà allontanarlo da quel luogo per un massimo di 6 mesi, che diventa fino a 2 anni se c'è una condanna nei 5 anni precedenti per reati contro la persona o il patrimonio. È possibile presentare un reclamo al questore o impugnare il DASPO urbano al TAR con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ora, anche sì, qui, certo. quello che si propone infatti anche di fare il VLAD è anche quello di fornire una serie di persone che possono riuscire a portare a termine tali operazioni, perché sia chiaro, un senza tetto o una persona... dichiarata gli indesiderabili, i cosiddetti indesiderabili, magari ecco non sanno nemmeno dove andare a fare ricorso al TAR o a impugnare al Presidente della Repubblica. Quindi quello che poi ci si propone, come già stiamo cercando di fare con ACAD, è quello di mettere a disposizione una vasta rete di legali che sono sempre pronti poi a intervenire anche in maniera repentina. Ecco perché, cioè, appunto il DASPO, come leggevi, è una cosa che ti arriva immediatamente, esatto. Non deve parlare, non deve passare da alcun magistrato e te lo trovi sulle spalle da un momento all'altro. Esatto. Senti, l'ultima domanda prima di lasciarti. Questo decreto Salvini, tanto osannato, che novità ci porta? Ma in realtà novità poche, perché siamo già sull'onda di questa emergenza tanto conclamata da parecchio tempo. Basti pensare a poco tempo fa, quando sono stati approvati i decreti Minniti Orlando. Di fatto il decreto Salvini non è altro che una continuazione e un inasprimento, una capillarizzazione di quelle che già erano le norme di controllo approvate dal precedente governo. Quindi si vedono delle aggravanti terrificanti. Vediamo come per esempio il mero blocco stradale, che poi era una delle pratiche più pacifiche, no? Che si potevano utilizzare anche a livello di manifestazione proprio repentine sul momento, può arrivare addirittura, puoi essere condannato fino a 12 anni per un reato del genere, diventa penale e puoi essere condannato dai 6 mesi ai 12 anni. Ricordiamo che i 12 anni le persone vengono condannate quando si stupra un minore, quindi paragonare anche uguale, in questo proprio modo un blocco stradale è un stupro, la stessa cosa. Sì. Allora, senti Carlotta, intanto ti ringraziamo, dacci dei contatti di ACAD tendenzialmente. Sì, grazie a voi ancora per averci invitato. Ci potete contattare sulla nostra pagina ACAD Associazione contro gli abusi in divisa, ci potete contattare sulla mailing list all'indirizzo info@acad-inventati.org. Giusto 2 appuntamenti futuri, vai. Vi do

costruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono. Dacci, dacci. Eccoci qua. Pensavate che fossimo andati via? Cucaz è la nostra risposta. Ci siamo sempre su Radio Wombat. Wombat, Wombat, qui è Grippo che vi parla e che non vi avevo mai parlato quest'oggi. Abbiamo avuto Bricobaldo con una grande intervista. Ringraziamo Akad e Carlotta. E abbiamo un sacco di ospiti. Uno speciale che è arrivato quasi a nostra insaputa. Sentite la sua voce, sentite, la riconoscete, sentite. E se non la riconoscete male, andate mi a riconoscete? Mi riconoscete? Noi sì. Viendo alla campagna. Viendo alla campagna, via. Si fanno le incursioni urbane. Sentite che atmosfera fischiettante tra il grano ci ha portato. No, secondo me non è tra il grano, è tra le olive, tra l'olio. Inzuppato di olio, sì, unto e bisunto. Ma di olio buono, però. Bravo, hai contestualizzato anche con la stagione. Grazie, certo. Grazie Bricco. I saperi di campagna. Si tratta di Mulo, per chi non l'avesse capito, che si vada ad ascoltare Radio Contado in onda tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Ma anche per chi lo avesse capito, seguiti a ascoltare Radio Contado con ancora più assiduità e contentezza. Da Frittole, from Frittole. And now. Cambiamo argomento, caro Grippo. Talk about. Si va a parlare di un certo Bethune? L'ho detto malissimo, ragazzi, correggetemi. Buonasera, no, intanto. Ciao, ciao, buonasera. Hola, cari. Anche noi lo chiamiamo Bethune. Bethune? Ma quasi bitume. Diciamo, Critica, c'è stata mossa invece, spesso, sì, devo dire. Sì, no, sì. Invece no, spiegatelo chi è Bethune, perché insomma è una figura non da poco. Allora sì, ciao a tutti, noi siamo del collettivo appunto Norman Bethune. E Norman Bethune era un medico canadese nato a fine dell'Ottocento ed è stato uno dei pionieri, diciamo, della medicina popolare. È stato ha partecipato sia alla guerra in Spagna, e dopo si è quasi, diciamo, arruolato nell'esercito di Mao. È stato uno che ha portato, diciamo, dei progressi all'interno della medicina militare, ha inventato tantissime tecniche che, diciamo, sono state utilizzate fino a poco tempo fa. Parlo ad esempio delle trasfusioni nei campi di battaglia. Ora sembra tipo collettivo militarista, no? No, però, senso, però non è banale questa cosa. Nel perché senso, noi pensiamo, sì, comunque è una figura che ci ha affascinato tantissimo, perché, diciamo, all'inizio del secolo la medicina era sempre stata un qualcosa di lontano da quella che era la massa popolare. Lui è stato uno dei primi a, diciamo, liberarsi da questo fardello e cominciare a restituirlo al popolo per una causa giusta, perché comunque è stato, sì, una figura alla strega di Che Guevara per quanto riguarda, diciamo, le persone mediche che hanno fatto parte poi dell'immaginario collettivo di una certa parte. Quindi, nel senso, l'abbiamo conosciuto grazie a un'iniziativa che abbiamo organizzato tempo fa con il collettivo di medicina e assieme ai comitati d'appoggio alla resistenza per il comunismo, e da lì poi c'è stato questo filo rosso che ha collegato che ci ha collegato con questa figura, da qui appunto il nome collettivo Norman Bethune. Sì, poi a parte non ci scandalizziamo, anche perché di fatto la medicina si può dire, ma come quasi tutte le scienze, le ricerche arrivano militare. In ambito militare, cioè, e quindi era possiamo farci che poteva essere fuorviante, ma va bene. No, non saranno fuorviati. Allora, quindi si diceva, parte dal collettivo Codice Rosso, intanto nominiamolo, il collettivo di medicina, sì, ma sì. Questo nuovo collettivo di cosa si occupa? Allora, appunto la nascita di tutto il collettivo in Betune appunto viene fuori da quella, da quello che era, da quello che è Codice Rosso, dai militanti, i compagni e le compagne che avevano finito il loro percorso di studi e che appunto hanno iniziato poi a lavorare e di conseguenza non potevano più far parte ufficialmente di un collettivo di studenti universitari. Su stimolo anche della rete sociale Fuori Mercato, che appunto ci aveva invitato a parlare, a cercare di organizzare uno sportello, un qualcosa che potesse essere il più vicino possibile al concetto di ambulatorio popolare. E da lì appunto abbiamo deciso di organizzarci con questo collettivo, che era la formula più o meno che ci apparteneva di più, dal momento che tutti i ragazzi e le ragazze che ne fanno parte hanno più o meno militato in altre organizzazioni e continuano a farlo, e organizzazioni e spazi occupati e altri collettivi. E sostanzialmente è una cosa che è venuta fuori, diciamo, a marzo di quest'anno, l'abbiamo maturata in questi mesi in un discorso politico e alla fine abbiamo cominciato adesso con l'attività dell'ambulatorio, che appunto verrà inaugurato brevissimo venerdì pomeriggio alle 18:30. Sì. Dove? Bella storia. Allora, in via Gran Bretagna 133, presso quindi il zona locale. Via l'Europa, bravo, tutte, sì. Tutte le strade con i nomi dei posti, esatto. Cioè dei paesi, sì, sono tutte là. Sì, sono tutte là, sì, è vero, via Ungheria, via sì. Unione Sovietica e poi c'è via Gran Bretagna. Anche via l'Europa stesso. E via l'Europa, sì, esatto. E il numero 133 presso i locali appunto della rete sociale Fuori Mercato. Dalle 6:30 ci sarà l'inaugurazione di questo ambulatorio e a seguire abbiamo convocato, diciamo, un'assemblea sia tra di noi sia tra le realtà che sono interessate al discorso, ne vogliono far parte o vogliono semplicemente informarsi, e si concluderà alla fine con un rinfresco e poi buono, basta. Bene, ambulatorio che sarà aperto? L'ambulatorio sarà aperto tutti i venerdì dalle 5:30 alle 19:30. Poi ovviamente il momento d'apertura non è rivolto semplicemente ai servizi ambulatoriali, ma è un giorno che noi ci siamo dati per confrontarci, quindi nel senso l'ambulatorio vogliamo che sia un punto di riferimento anche per quelle persone che semplicemente vogliono iniziare a far parte del discorso e vogliono informarsi e contribuire a questa cosa, ecco. Ottimo. Seguitiamo, allora. Esatto, quindi intanto chi siete, nel senso che figure professionali ci sono all'interno dell'ambulatorio? Allora, all'interno dell'ambulatorio intanto ciao a tutti e grazie di averci invitati. Ma grazie a voi. Grazie all'interno dell'ambulatorio si trovano, abbiamo personalità differenti, nel senso che siamo medici abilitati, siamo studenti di medicina, siamo infermieri e si spera anche di coinvolgere anche studenti di infermieristica. E abbiamo appunto psicologi. Questa presenza, esatto, della componente di psicologi, anch'essi insomma già che svolgono la professione, per creare questo binomio che a parte secondo noi è fondamentale per quello che è un supporto e un ascolto dal punto di vista sanitario, che appunto si lavora in sincronia con lo sportello di ascolto psicologico, perché come si sa insomma quello che ha a che fare con la medicina e con l'ascolto delle problematiche sanitarie che possono affliggere l'individuo ha tanto di psicologia, ha tanto anche di approccio alla materia, perché quello che vuole essere un po' il punto di forza dell'ambulatorio non è solo l'erogazione di un servizio, è il punto in cui ci si possa confrontare su tematiche di lotta legate allo smantellamento della sanità pubblica, ed è anche un luogo in cui sperimentare un nuovo modo e un nuovo tentativo di approccio all'individuo, alla persona nella sua condizione di malattia. Quindi un approccio compartecipativo con il paziente, un approccio che si fa che si fa forte di una grande educazione a quello che è la propria condizione, la propria conoscenza, la conoscenza del proprio corpo, della propria malattia. Infatti ci si pone un po' l'obiettivo di concentrarci su quello che sono le patologie croniche, che il seguire una patologia cronica ha delle enormi falle all'interno del sistema sanitario nazionale, certo. non si riesce a supportare dopo per esempio un intervento che prevede una stomia e quindi e non riesci poi a seguire il paziente nel suo decorso post-operatorio e quella che poi sarà la sua condizione di vita e qualitativa della vita. Certo, mi introduco. Cioè, oltre al fatto che diciamo, il lavoro d'équipe che viene diciamo, insegnato, ripetuto con un mantra durante tutte le università sanitarie, ecco, io non credo che sia effettivamente applicato poi nella sanità pubblica che abbiamo adesso. Cioè, l'idea, cioè, sentire che ci sono figure sanitarie di vario tipo, uno psicologo, che ci sono infermieri, che ci sono medici, che possono lavorare insieme, mi fa pensare anche a una buona prospettiva nell'ottica del lavoro d'équipe, cioè che insomma mi piacerebbe davvero vederlo fatto da qualcuno per davvero il lavoro d'équipe nel sanitario. È importante anche che ci siano sia persone che già sono abilitate, che insomma professionisti già attuali e operativi nella sanità, ma che ci siano anche degli studenti, perché nel senso il discorso portarlo avanti a partire dall'università, insomma, gran lavoro, grande cosa. No, ora ti avevo interrotto, quindi cioè, se avevi qualcosa. Ok. E per quanto riguarda, volevamo insomma capire e approfondire un po' di più per quanto riguarda la territorialità del servizio, no? Come dicevi te, no? Parlavi di cronicità, delle persone che vengono buttate fuori dagli ospedali senza troppe indicazioni e che poi vanno a gestire la loro patologia a casa senza un adeguato supporto e senza delle adeguate spiegazioni. Appunto, si diceva zona come via Gran Bretagna, giusto? Come intendete radicarvi all'interno del territorio? O comunque, nel senso, questa cosa immagino sia prevista e studiata da voi, giusto? Sì, allora, il discorso appunto è questo. Diciamo, hai centrato un pochettino il target che ci siamo proposti, nel senso che non abbiamo né l'obiettivo di sostituirci a qualcuno, né tantomeno, cominciare a fare un qualcosa d'alternativo a quello che è il sistema pubblico, perché comunque la nostra formazione nasce da lì, dall'università, abbiamo conosciuto il sistema sanitario nazionale, sappiamo che comunque sia in Toscana, con tutti gli aspetti negativi che ci possono essere, le criticità che c'ha, è un qualcosa che almeno agli studenti riesce a dare tanto. Sì. E ci rendiamo conto comunque che il territorio, ok? E con questa tendenza ad appaltare i servizi alle varie organizzazioni, chiamiamole private, senza fare troppi nomi, però certo. comunque lasciando un pochettino il paziente nelle mani, okay, di un qualcosa che è parallelo, convenzionato al pubblico, ma non è direttamente quello, d'accordo? E sappiamo che il soggetto si andrà a trovare di fronte a delle difficoltà enormi, soprattutto perché vediamo che la medicina generale, quella di base, i medici di famiglia, comunque non riescono mai a rispondere per un discorso di numeri al, certo. al problema effettivo. Io, per dirti, guarda, faccio la guardia medica, quindi sì, nel sì. senso sono veramente a contatto con il territorio, sia a Gavinana sia a Firenze Sud-Est, più o meno conosco un pochettino i vari quartieri e un po' l'Interland, e mi sono reso conto che le persone alla fine non conoscono neanche tanto bene quelli che sono i propri diritti, quindi non sanno magari che effettivamente il medico di famiglia deve assisterti quando tu ne hai reale necessità sempre, che comunque il servizio sanitario deve darti una risposta in tempi rapidi. Quindi il nostro obiettivo, come dicevi tu, quindi al paziente che fuoriesce dall'ospedale per qualsiasi ragione è appunto ha bisogno di sapere che fare di se stesso, il nostro discorso è saperlo, riuscire a farlo orientare nei meandri del post, okay. e cercare anche magari di aiutarlo effettivamente se ne ha reale bisogno. È per questo che abbiamo diciamo più livelli d'azione dopo l'orientamento nel sistema sanitario nazionale abbiamo quelli dei servizi infermieristici, okay. Per cui se magari una necessità per un tot di tempo di dover fare, per dirti, delle iniezioni oppure terapia endovenosa, bravissimo, o delle medicazioni particolari, l'infermiere si concorda con un prezzo popolare, perché comunque tendiamo anche al discorso della dignità, certo, del lavoratore e delle... e del lavoro in generale, certo, senza fare carità, senza fare nel senso qualcosa che è un mero assistenzialismo. Noi vogliamo che il paziente diventi partecipe del discorso, contribuendo per quello che può, volontariamente o simbolicamente, al tutto, e poi riuscendolo ad aiutare il più possibile. Okay. Anche scusami, anche perché, cioè, ora mi permetto di aggiungere un'altra cosa, vale, per quanto riguarda proprio i servizi infermieristici, no? Ci sono tantissime, ora non facciamo nomi, ma ci sono diverse agenzie che erogano servizi privatamente infermieristici, no? E a parte il fatto che a Firenze, insomma, io mi ci sono interfacciato e sono praticamente quasi tutte inventate o sostenute da persone che infermieri non lo sono. Cioè, a me piace molto quest'idea che ci sia un team sanitario che vada poi a decidere i vari interventi e a decidere come porsi nelle varie situazioni, perché molto spesso quello che viene offerto dalla sanità privata, mettiamo uno sia anche disposto a pagare, no? Per, sì, anche tanto per farsi arrivare un servizio infermieristico a casa, per non lo so, un cateterismo che si ottura, sì, cosa tipicissima, cioè, no? Che succede di continuo. Questo servizio spesso è strutturato da persone che infermieri non lo sono, e questo si vede veramente tanto. Cioè, io insomma mi ci sono ritrovato e non è proprio non ha senso, ecco, è una cosa fatta per soldi più che sì, insomma. Anche perché comunque sia ora magari senza andare effettivamente troppo nel dettaglio, certo, ma tutto, certo, quello che si fa a casa, a domicilio, spesso sono cose che hanno dei costi abbastanza relativi, nel senso, sì, sì, speculare su un servizio perché viene erogato il fine settimana a noi ci sembra un qualcosa d'assurdo, perché, certo, comunque sia l'infermiere, il medico, lo psicologo in generale, chi fa parte del sistema sanitario fa parte più di una comunità che dovrebbe avere dei valori nobili, no? Che lo portano anche a dare se stesso senza ricevere troppo in cambio, però sì, nel, sì, senso, sì, effettivamente è giusto, cioè noi vogliamo, noi stiamo prendendo anche coscienza del fatto che, ma sia anche per un discorso ideologico, perché comunque partiamo, certo, dalla base che noi abbiamo fatto un collettivo, non una cooperativa o un'associazione, mm-hmm, cioè noi siamo proprio, cioè abbiamo un'idea, stiamo da quella parte, nel senso abbiamo le idee chiare, quindi magari ragioniamo in questa maniera anche perché siamo in questa maniera, però in generale da un punto di vista professionale si può ribaltare anche il discorso, come a dire, qui la situazione comincia a diventare un'emergenza anche in Toscana, dove la sanità funziona, quindi magari si comincia anche a rivedere i costi dei servizi, mm-hmm, perché la gente altrimenti smetterà di curarsi, cioè le statistiche lo fanno vedere, come effettivamente molte persone affette da malattie croniche, come diceva la CECI, che sono difficili da gestire, smettono le cure perché non ce la fanno più, chi soffre di ipertensione magari smette di prendere le medicine per un discorso di soldi o perché semplicemente non viene più informato sulla sua situazione, non è seguito. Nel senso, oppure chi ha problemi di qualsiasi altro tipo, di ipertiroidismo, ora per dire tutte quelle condizioni che possono di cui le persone possono essere affette, e comincia a un certo punto ad esserci un disinteresse, ecco. Certo. Ecco, proprio riguardo a questo, io una domanda ve la voglio fare, perché come dicevi anche tu, come dicevate voi, spesso il processo di cura è si tratta di un affidare la propria salute, il proprio corpo a un, fra virgolette, curatore, senza che ci sia veramente un coinvolgimento. Vi volevo chiedere se la vedete così voi, quali soluzioni proponete a riguardo, e anche una provocazione, perché parliamo di lavoro di HIP da oramai tanti anni a questa parte in ambito sanitario. Lavoro di HIP significa appunto che una figura, ogni figura professionale, discute del caso particolare, in particolare tutti insieme, per tirarne fuori una linea d'azione. Ma il paziente, se così si può chiamare, può far parte di questa HIP? Senti, tanto una domanda molto interessante. Il, secondo me il punto fondamentale è che ha a che fare molto con la conoscenza e l'egemonia della conoscenza da parte comunque di una classe medica che nella sua formazione, insomma, nel suo sviluppo ha sempre tenuto ad avere una grossa distanza con il paziente ed una grossa, appunto, questo ruolo di superiorità dato dalle sue competenze e le sue conoscenze, e spesso veniva anzi indicato come sbagliato il mettere a parte il paziente di tutti i dettagli che lo riguardavano, di tutti i dettagli che potevano riguardare anche la sua terapia, con l'idea che il paziente che sa meno subisce meno. Invece, insomma, è stato ora sono varie le teorie che si sviluppano sia in ambito medico sia in ambito psicologico, che vedono la partecipazione attiva della cura del paziente, perché appunto, come sappiamo, così come insomma la medicina cerca l'universalità, il corpo umano non può trovare questa cosa, e quindi la terapia è da modellare e da modulare sempre di più e il più possibile su misura del paziente singolo. E la compartecipazione attiva del paziente è fondamentale in questo, perché intanto è necessario creare quel rapporto di fiducia e di vicinanza e di parità che permette al paziente di sentirsi, di affidarsi ad un medico, ma non affidarsi nel senso di delegare quelle che sono le scelte per la sua persona ad un terzo, insomma all'interlocutore, ma di fidarsi dei consigli che vengono dati dal medico per esperienza sua, ma poi tutti gli aggiustamenti del caso che vengono fatti dopo che una terapia può essere stata decisa insieme sono fondamentali, ed è fondamentale qual è la risposta singola del paziente dal punto di vista non solo fisico e quindi eventuali dolori, che sappiamo, insomma, il dolore per esempio è una di quelle cose più difficili per la medicina da valutare, da misurare, e anche lì l'ascolto e la partecipazione attiva del paziente è fondamentale. Anche per orientarsi per quanto può essere la risposta psicologica che sta avendo quel paziente a quella data terapia, perché le terapie hanno controindicazioni quasi sempre, quando parliamo poi di terapie per patologie importanti come possono essere una neoplasia, un tumore, insomma, hanno controindicazioni importanti, e deve essere il paziente, in base al suo stile di vita, che è in grado anche di identificare quelle controindicazioni che meno possono impattare sul suo quotidiano, e che quindi possa lui avere possa essere messo nelle condizioni da chi quei saperi li ha accumulati in anni di studi e in anni di tirocini, vengano dati appunto questi strumenti per poi compiere una scelta consapevole. Questo ha, secondo me, tanto a che fare, perché è un lavoro enorme, è un lavoro che chiaramente aumenta le tempistiche e anche la dinamica, perché se in un ospedale viene previsto che una visita venga fatta in 8 minuti, 12 minuti, quanti sono, sì, i minuti, una cosa del genere, sì. È ovvio che anche poi tutto quello che viene portato avanti come piano terapeutico prende dei tempi molto più lunghi, perché vanno discusse, vanno spiegate le cose, e questo ha a che fare tantissimo con la perdita della territorialità dei servizi, ha a che fare tantissimo con lo smantellamento di quelli che sono i servizi capillari, perché se l'ospedale va e funziona, Careggi è ancora un punto fondamentale per quello che è un'emergenzialità, quindi un problema che viene risolto nell'arco di un periodo di degenza all'interno dell'ospedale, il presidio territoriale strutturato ora come l'ASL attuale, ma ancora meglio con le nuove idee che vengono fuori sulle case delle salute, che si propongono di essere anche fondamentali dal punto di vista della prevenzione, su un servizio capillare e territoriale ho la possibilità anche di creare questo rapporto e questo punto di riferimento per le famiglie del quartiere, alla fine, appunto, quindi restringendo sempre di più il campo. Certo. Quindi praticamente ci stavi dicendo ora, poi sei andata avanti, no? Si può dire quasi che non esista una giusta cura universale per un problema, ma che la giusta cura la si debba far accettare, scegliere in una qualche maniera insieme al paziente e che ci sia una giusta cura per quella persona, ecco, insomma si va sempre più sullo specifico, no? Si sa che la letteratura medica aumenta tutti gli anni in maniera spropositata, qualche anno fa mi dicevano che raddoppiava tutti gli anni, no? Quindi insomma io credo che quello che hai detto è molto molto importante e insomma, si va avanti così. Molto, molto interessante, fra l'altro, la questione della territorialità, perché hai nominato la Casa della Salute, cosa che di fatto stava per nascere in Italia, se non mi sbaglio. Un po', correggetemi se sbaglio. Ce ne sono già alcune. A Firenze, sì. Esatto. C'è qualcosina di simile, già era stata avviata anche nel territorio, anche in provincia. Sono cose che arrivano un po' dall'estero, se non mi sbaglio. In Brasile. Se non mi sbaglio. C'è il progetto Mois Medico, che fra l'altro leggevo giusto ieri, che sta per essere smantellato. Anzi, il progetto Mois Medicos era nato e era cresciuto grazie a una fortissima collaborazione da parte di Cuba, dei medici cubani. Cuba ha mandato tantissimi medici in Brasile per ampliare il progetto e capillarizzare il progetto delle Case della Salute. Fra l'altro Cuba ha deciso giusto ora di ritirarli, di riportarli tutti in patria, perché con il nuovo governo è assolutamente impossibile lavorare in questo senso. Però la territorialità è sicuramente una cosa fondamentale che sta venendo a mancare anche in Italia. Però voi vi definite un collettivo politico, quindi la territorialità sotto che punto di vista la vedete? Da un punto di vista, cioè lo vedete come un percorso da intraprendere da un punto di vista politico o da un punto di vista sanitario, o entrambi? Beh, diciamo che per noi il discorso politico lo ingloba quello sanitario, nel senso che crediamo fortemente nel servizio pubblico e di conseguenza vorremmo che la territorialità sia forte del servizio, proprio perché i cittadini ne hanno diritto, punto. Poi che il discorso sia delegare alcune prestazioni che effettivamente magari il pubblico non riesce a erogare, ci può anche stare in un'ottica di quella che è l'aziendalizzazione del sistema sanitario, ma delegarle tutte non ha senso, cioè non è assolutamente concepibile il fatto che, ora parlando proprio esplicitamente, che una persona debba per forza fare tutte le analisi, tutte le radiografie alla misericordia, piuttosto che nel Servizio Sanitario Nazionale, perché la misericordia le fanno prima e lì le fanno dopo 6 mesi, cioè il discorso è di conseguenza anche i servizi del territorio, mi riferisco alla fisioterapia che c'era a Gavinana che poi è stata tolta, oppure allo smantellamento previsto per il discorso di Santa Rosa, cioi sono dei punti di riferimento. Io poi dall'altro sto a San Frediano, lo vedo la gente proprio, Santa Rosa è un riferimento del quartiere, che poi l'idea solo di toccarlo e di toglierlo mi sembra veramente assurdo. Che ne sarà di Santa Rosa? No, allora il discorso di Santa Rosa noi vorremmo cominciarlo a seguire per bene, ancora non sappiamo bene. Sono state annunciate dei restauri, ho visto dalla Saccardi. Sì, fondamentalmente quello che è successo è stato, a seguito di una protesta ben condotta dal Comitato in difesa dell'ASL di Santa Rosa e in parte dai ragazzi dell'occupazione di Via del Leone, il lavoro è stato portato avanti con la Saccardi, con insomma il culmine della Saccardi, che annuncia questo finanziamento in difesa dell'ASL, per insomma diciamo 500.000 euro per restaurare nel 2019 il piano terra e un milione, esatto. Più milioni. Perché il punto qual è stato che lei ha annunciato questo finanziamento per la messa in sesta dell'ASL di Santa Rosa, quando la maggior parte di questo finanziamento andrà alla ristrutturazione di futuri uffici regionali per la sanità, che verranno spostati dal centro dove sono in un punto in cui pagano l'affitto, e quindi ovviamente è stato giustificato come una riduzione di costi per la regione, quindi la ristrutturazione del complesso di San Giovanni di Dio e appunto destinato ad uffici. quello che si vede sull'ASL di Santa Rosa è un'enorme riduzione dei servizi, quindi a discapito di quello che ha detto la Saccardi sul fatto che avrebbero mantenuto i servizi già attivi all'ASL di Santa Rosa, è falso, perché l'idea è proprio invece quella di un'enorme riduzione, soprattutto che tocca il campo psichiatrico, sì, che ha a che fare con la psichiatria dell'adulto in particolar, sì, modo, e vediamo che in realtà è una cosa molto generalizzata a livello nazionale l'attacco alle strutture, ai presidi psichiatrici che non siano quelli contenitivi degli SPDC. E quindi diciamo che la battaglia è aperta, anzi si spera ora con il collettivo Codice Rosso e con appunto il comitato di difesa dell'ASL di Santa Rosa, che nei prossimi mesi avremo diversi appuntamenti per portare avanti la questione, che è tutt'altro che chiusa, perché appunto c'è da fare chiarezza su questo finanziamento annunciato e messo in atto dalla Saccardi, ma su come verrà destinato e come verranno utilizzati effettivamente questi soldi. Ma scusate, volevate chiedere qualcos'altro? Chi è? Io? No, ti vedevo attivo. No, che no, mulo, no. Che scalpita. No, stavo annuendo, ero d'accordo, sì, stavo dicendo. Ma aprite un ambulatorio questo venerdì e vi fermate lì, oppure avete progetti più ampi? Allora, il discorso è che tutto parte anche dall'idea che avevano i compagni e le compagne della rete sociale Fuori Mercato, e di conseguenza è un qualcosa che stiamo decidendo assieme a loro. E per ora ci soffermiamo a farlo funzionare, a vedere anche il tipo di domanda che ci sarà nel quartiere, soprattutto, e speriamo nella città. E diciamo che lentamente speriamo di andare avanti. E quello che vorremmo fare noi magari è quello di riuscire a creare innanzitutto una rete tra le realtà fiorentine che stanno nascendo in questo periodo. Ecco, diciamolo, perché non è, appunto, no, voi non siete l'unica realtà. No, guarda, tra l'altro ti dico, cioè il discorso è nato quasi parallelamente, credo, al libero ambulatorio popolare di Piazza Tasso. Sì, che fra l'altro ha cambiato nome e okay, si chiamerà Casa della Salute Oltre Arno. Bravo. È nata, no, te lo dico perché sì, sto seguendo l'assemblea. Appunto. E fra l'altro sono già stati su Radio Wombat, a Radio Contado. Ok, infatti, guarda, è stato forte perché noi quando abbiamo visto il volantino abbiamo detto no, ma che sta succedendo? Ci hanno copiato. Oppure diciamo, potrebbe sembrare una casualità, ma probabilmente una casualità non è, perché secondo i bisogni sono reali. Allora, secondo me il fatto è questo: Firenze ha avuto e ha questo tipo di esperienze. Io mi ricordo quando avevo iniziato medicina che avevo conosciuto un ragazzo che poi ora fa il medico, che era un attivista militante dell'ambulatorio popolare in Borgo Pinti presso l'Ateneo Libertario, che conoscevano in pochi, secondo me, e poi in realtà non è andato mai avanti il discorso, è finito lì, va bene. Quindi penso che alla fine a Firenze non ci sia mai stato, forse anche per i bisogni, le domande, non lo so, però qualcosa che nel tempo è andato avanti ancora non c'è stato. Però vedo che c'è volontà anche su Facebook, e poi può essere una cavolata, però comunque è un termometro di quello dell'ambiente attorno. Ho visto che c'è stato parecchio riscontro anche sul discorso di Piazza Tasso, la gente comunque si è interessata, e noi speriamo che adesso cominci ad andare avanti, e soprattutto speriamo di riuscire a fare rete con loro, rete con Piazza Tasso, rete con gli Anelli Mancanti, che hanno anche loro un ambulatorio con diciamo un target abbastanza più esplicito verso i migranti, però comunque aperto anche loro esistono, funzionano da tantissimo tempo, quindi è con i vari comitati di quartiere che già da tempo avevano portato battaglie per questo discorso della sanità Sanfrediano, Gavinana, eccetera. Sì, esatto, ascoltatrici e ascoltatori, vi suggeriamo, se siete interessati, di partecipare a tutti questi progetti, perché stanno nascendo adesso e sono tutte assemblee, quindi dinamiche assembleari, dove assolutamente è ben voluta, ecco, la partecipazione, anzi si cerca di far sì che sia il più partecipata possibile. Quindi voi avete un'assemblea, se non mi sbaglio, giusto? Sì. Abbiamo settimanale? L'assemblea la facciamo coincidere appunto con l'orario dell'ambulatorio, almeno in questa prima fase, perché comunque stiamo crescendo adesso. Quindi il venerdì alle 5:30 in via Gran Bretagna 133 presso la sede di Fuori Mercato. Esatto, okay. In particolare questo giovedì alle 18 ci sarà l'inaugurazione, sì, con una pericena, se non erro. Sì, faremo un'inaugurazione, un incontro con chi vuole partecipare e prendere parole, e successivamente un aperitivo. Sentite, ma ce l'avete un elenco dei servizi che fornite? Sì, ce l'abbiamo. Allora, ce lo leggete? Ce lo dite più o meno? Sì, ve lo diciamo brevemente, dai, magari sì, senza elencarli tutti. Abbiamo sia una serie di servizi medico-infermieristici, che sarebbe lo sportello di medicina generale, quindi con un medico diciamo a settimana, e in più i servizi infermieristici che vanno dalle medicazioni semplici e complesse appunto al cambio dei cateteri, o alla somministrazione di terapia endovena, intramuscolare o semplicemente appunto orale. E diciamo l'assistenza infermieristica più o meno è coperta quasi totalmente, sì. E in più lo sportello dello psicologo, lo sportello d'ascolto psicologico, che va sia dalla condizione appunto della persona in sé per sé, che nel contesto sociale, e quindi nel discorso appunto di crescita. Diciamo la compagna che sta portando avanti il discorso dello sportello psicologico sta facendo anche tutto, si è posta degli obiettivi abbastanza interessanti, che poi nel tempo andranno anche un pochettino a maturare, però comunque è un qualcosa su cui noi vogliamo puntare tanto, il discorso della visita medica associata all'ascolto dello psicologo, perché pensiamo sia importante e che venga fatto troppo poche volte, ecco. Benissimo, avete anche delle pagine, Facebook, mail, dove potervi contattare? La pagina Facebook ci trovate, ci chiamiamo Collettivo Vesune - Ambulatorio Popolare, e la nostra mail è collettivo-vesune@googlegroups.com. Allora, ricordiamo ancora, venerdì 30 alle ore 18, via Gran Bretagna 133, non mancate, perché questa è la grande novità. Viva! Grazie. Con questo vi salutiamo. Grazie a voi. Grazie, grazie mille, grazie mille per essere stati qua e buon lavoro. Ciao. E nel frattempo un pezzo della regia di Glunted Love. Prophet of Rage with Unfuck the World. Oh! Glunde pezzo. Where dreams die. same sky, yeah, and they hate it. All you need, people, treasure leads us to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Mold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah, when the people take a stand. Oh, no hatred. Un pochino frigge, ma noi ci siamo e siamo carichi come sempre per la nardellata della settimana. Ci siete, ragazzi? Ah! Intanto partiamo subito con un augurio. Il 20 novembre, se non sapete, il nostro caro amico Daritto Nardella ha compiuto 43 anni. Tanti auguri a te. Ma io non gliela voglio cantare, però. Tanti auguri a te, tanti auguri Nardella, tanti auguri a te. Bravo! Oh, mi porti bravo! Malissimo! Oh. Ma gli abbiamo fatto un regalo. Come no? La Nardellata della settimana. Cioè, ci siamo. Allora, allora io partirei un attimino. Allora, partiamo col botto subito, va? Sì. Ah, vai, dai. Casa Pound in piazza, scoppia la protesta, autorizzazioni inaccettabili, sinistre ampie contro Palazzo Vecchio, scelta che sbarodisce quando andiamo a leggere Firenze Today. Non avevano detto che bisogna essere antifascisti per fare queste cose? Sono arrivati, attenzione, dire. Perché, cioè, loro sono antifascisti. Sono antifascisti, infatti. Però, aspetta, mandiamo direttamente il contributo audio, così capiamo un attimino cos'è che ne pensa il caro Dario. Dagli amici della pagina Facebook Wario Nazdella abbiamo questo contributo audio per voi, solo su Wombat. Il Consiglio Comunale ha votato un criterio che prevede un modulo con delle dichiarazioni. La notizia è che Casa Pound ha dichiarato di essere antifascista. Ecco. Noi controlleremo. Controlla, vai. Come? Casa Pound ha dichiarato di essere antifascista. Modulo. Questa cosa è che francamente mi imbarazza, perché se non l'avessi vista tenterei piuttosto a crederci. La realtà è che questo gruppo, non di studenti, perché poi li ho visti bene, sono neonazisti, non so come chiamarli, ma insomma cose stranghe, tutto è arrivato con un camion pieno di stranghe armi verso le 11, dopo aver picchiato per strada un paio di ragazzi circondati e picchiati. Sto raccontando tutte cose che ho visto. Certo. Quindi non ho sentito dire, sono arrivati qua totalmente, diciamo, non voglio dire scortati, ma ignorati dalla polizia, e hanno incominciato a provocare, a attaccare, a picchiare dei studenti che erano qua al grido duce duce. Boh, Controlla, vai. Guarda, controlla, difficile Darietto. Controllare. C'è bisogno di controllare. È in fase d'accertamento. È in fase d'accertamento. No, no, è giusto. Ora, finché non esce, cioè, non lo sappiamo ancora quale sarà il responso di Nardella su questa presunta fascistosità. No, mo deve controllare, però. Bisogna controllare, sì, esatto. Però, anzi, io lancerei un appello a Darione: facci sapere se sono antifascista. No, perché nel caso che siano antifascisti, cioè, potremmo prenderli in considerazione. Certo. Potremmo invitare la Radio Uomo. Li invitiamo con le polveri. Cioè, no. Poi le polveri, Radio Contato, passaggio regalamo lì Radio Wombat. Allora, certo. Nel frattempo facciamo fare un bel giro di schiaffi. Nel frattempo sotto, così a merda, vi faccio partire un altro sottofondo per introdurre un grande artista. Sentite. Sentite qua che gorghetto. Anna di Affida. Sembra Matteo Renzi. Presidente ricco, ma perché non fa Matteo Salvini? Matteo Renzi. Allora, ve lo lascio andare un attimino, Alta radio, Fico alta radio. Renzi. E alla fine ce l'abbiamo fatta, a mandare Matteo Bello Figo. Abbiamo mandato Bello Figo. Era stato impedito. Sì, esatto. La briglia sciolta. L'abbiamo fatto così a merda. Sì, ormai è completamente a briglia sciolta, è completamente fuori controllo questa contro Dario. Ma perché vi parlo di Matteo Renzi? Perché tra poco arriva in TV, e tutti quanti voi lo stavate aspettando, quello lo leggo da un articolo di Repubblica del 23 novembre, Firenze secondo me, il grande documentario di Matteo Renzio. Da Palazzo Vecchio agli Uffizi, dal corridoio del Vasari alla Basilica di Santa Croce, l'ex premier dal 15 dicembre per 4 settimane sarà protagonista sulla 9. Sono felice, un sogno diventato realtà. La grande dichiarazione anche nostro, quindi ogni sogno, sì, perché vederlo a fare documentari invece in politica è già quasi un sogno. Ogni sabato sera per 4 settimane Matteo Renzi sarà in TV protagonista di un documentario sulle bellezze di Firenze, quindi non lui ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook, è lo stesso ex premier. Adesso è ufficiale, possiamo dirlo, dal 15 dicembre il documentario Firenze secondo me andrà in onda per 4 settimane sempre sabato sera dalle 21 sulla 9. Un appuntamento che rende Renzi molto orgoglioso, e qui ci ripicchio sopra, perché porca troia, su questa cosa ci sento un monte. Sono felice, grazie. Aspetta, no, ho sbagliato. Ho sempre pensato che Firenze fosse speciale, capace di tenere insieme la politica e la bellezza, gli scontri e i capolavori, l'innovazione e la poesia, il passato e il futuro. Studiare, vivere, raccontare Firenze ti aiuta a vivere meglio. I tempi sono questi. Quando la barbarie attacca la cultura, investire su un progetto educativo per Firenze è una sfida affascinante e difficile. La bellezza salverà il mondo. Io ci credo davvero. Questo è... Wow. E se ci crede lui, ci crediamo anche noi, direi. Esatto. E io, comunque, la parte su cui mi volevo incazzare è questa qua. Scritto con Sergio Rubino, il documentario è dedicato alla città in cui l'ex presidente del Consiglio è nato e cresciuto fino a diventarne sindaco. Non è vero! Non è vero! È di Rignano, merda! Rignano sull'Arno, merda! Cazzo! Porca trasferito. Troia! Vaffanculo! Ma questa storia di Renzi è di Firenze? Non è di Firenze! Io sono di Firenze! Ma te devi chiedergli, anzi, sono di Rifredi, porca troia! Te devi chiedergli, ma Firenze è Firenze? Firenze è una sega, Rignano sull'Arno, quel posto nebbioso, triste e tremendo, proprio vaffanculo, veramente. È così. Che cazzo, cioè, perché vanno dette le cose? Cioè, io dico sempre di essere di Rifredi, cioè, però questo qui dice è di Firenze ed è di Rignano sull'Arno, porca troia. Posso proporre manco 50-100, ma che cazzo è? Posso proporre una cosa per la nerdellata di oggi? Sì. Perché abbiamo una testimonianza, se non mi sbaglio. Sapete bene che cosa succede, in Piazza Tasso, cosa succede il venerdì pomeriggio in Piazza Tasso. Certo. Tutti i venerdì c'è il Mercato Contadino. Mercato Contadino che ha avuto tutta una storia molto particolare, ma che ha visto qualche settimana fa la presenza del nostro daddy Dario Nardella. Ah. E forse qua Mulo ci può dire qualcosa, vero? Ci dica Mulo. Però dissi la vacca al mulo. Eh beh, grazie intanto di questo spazio audio che era totalmente inaspettato, tant'è che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il Nardellone è sempre il benvenuto, mi raccomando, anzi, cioè, d'ora in poi mi piacerebbe sottolineare che anche Wombat c'ha lo spazio recording e place in Piazza Tasso, la seconda volta non me lo farò sfuggire mai, certo. Quindi magari vorrà ringraziare voi. Ma tu c'eri quando è successo questa purtroppo no, però posso raccontare Com'è andata? È andata in maniera molto molto soft, nel senso che l'imboccata fu tra l'altro con il figlioletto, non sbaglio, voi siete molto più aggiornati sulla biografia di me. Matteo Renzi, ciao, lascia fare, vai avanti, io mi faccio trasportare, vai libero. Figuriamoci, stare qui a fuoco del polvere è una figata. Insomma, imboccò Matteo Renzi, fece un paio di annusate qua e là in un paio di banchine, dopodiché qualcuno, notandolo, perché è difficile non notarla visto l'aurea che lo circonda ovunque lui vada, è stato gentilmente, docilmente accompagnato al banco di, non so se conoscete, Mondeggi. Ci dice qualcosa, abbiamo sentito parlare. E non so se conoscete la città metropolitana di Firenze, non di Rignano sull'Arno, ma di Firenze, e di cui il presidente è il suddetto Matteone. E gli si è fatto presente che comunque sia le due cose, lui stare lì in piazza e la presenza di Mondeggi, erano in lieve contraddizione l'una con l'altra. Lui ha promesso, io a queste promesse credo moltissimo, che riaprirà di nuovo la questione, riesaminerà di nuovo le carte e probabilmente li rimanderà tutti a cagare, a quelli che stanno a Mondeggi. Certo, ovvio. Guarda, e se potessi aggiungere un personalissimo commento, sicuramente il Darione non era così presente a San Frediano in Piazza Tasso a sapere del mercato, qualcuno l'ha imboccato fin lì, e se io per un attimo mi mettessi nei suoi panni, qualunque cosa fosse successa sarebbe stato un successo. Ovvero, se avesse preso schiaffi o insulti, sicuramente sarebbe avremmo visto piangere il giorno dopo su The Nation e compagnia Briscola. Certo. Se invece avesse preso applausi, l'avremmo rivisto sulle stesse identiche pagine, e non è successo esattamente nulla, e quindi non l'abbiamo visto un cazzo. Non l'abbiamo certo. Buchetto nell'acqua per lui. C'è la tecnica sputo usata in passato però poi ci sono ritorsioni legali, e sul ciuffo anche di Nardella, che ci dispiace comunque venga sporcato, no? Noi abbiamo un enorme rispetto per i ciuffi, almeno dobbiamo, per dovere di cronaca, ecco, registrare anche una vittoria, mettiamola tra virgolette, di Nardella nell'ultima settimana. Quell'errore nella classifica in cui Firenze era, mi pare, 56esima nel rating di vivibilità, come si dice, di città più vivibile, sì, qualità della vita, in città. Ha ripreso molto duramente la Sapienza, che poi ha chiesto scusa. Il capoluogo toscano, dalla 56esima posizione, se n'è ritrovato alla 33esima. Nardella ha protestato per questa cosa, e dicendo: alcuni dati sono stati elaborati in maniera non corretta. Modifiche definite importanti che riguardano tutta la lavorazione, non solo quella del capoluogo toscano, e che modificano in maniera importante anche la graduatoria di Firenze. Con i dati rettificati, Firenze sale al 33esimo posto rispetto alla classifica del 2017. Complimenti. Quindi, complimenti a tutti. Vittoriona del Nardellone nazionale, bravo, sì. Tanti auguri, cioè è venuta credo intorno al giorno del suo compleanno, comunque, quindi nel senso se la sarà gustata doppiamente. In più, niente, ho qua accanto Briccobaldo, che me l'ha suggerita lui, e con il quale volevo parlare un attimino brevemente, poi promettiamo di documentarci meglio in futuro, perché non ho capito bene questo piano casa, da dove arriva, che fine farà nei prossimi tempi, perché io insomma lo seguo un po' da tempo. Adesso di recente c'è annuncio di Nardella, un piano casa da 400 milioni per 8.000 famiglie. 400 milioni. Allora sì, perché nell'8 luglio del 2018 diceva di lanciare, che avrebbe dovuto lanciare un piano casa del valore complessivo di 56,1 milioni, e lo diceva il più importante dopo quello guardato dal sindaco Lapira per dimensioni, risorse e obiettivi. Ora se ne vuole mettere uno da 400 milioni per 8.000 famiglie, se quello da 56 milioni era già molto più grande di quello varato dalla FIRA per dimensioni, se si va su 400, insomma, no, ma l'investimento sarà più come minimo 10 volte quello del mondo. Del mondo, sì. Del mondo, sì. Del mondo, dice anche nel sistema solare. Però. Sì. Allora, no, cioè, quello che possiamo dire è poco, nel senso che fino adesso abbiamo avuto annunci. Diversi annunci, sono stati prima dell'estate, ve ne è stato uno durante l'estate, ve ne è stato uno adesso, ma a ottobre c'era stata la ripresa e sì, se erano già spuntati 400 milioni sì, a ottobre. Ma fondamentalmente, cioè, il fatto è che non ci ha detto che cazzo vogliono fare, perché ci dicono ah, lo faremo, sì, ma cosa? Cosa? No, c'è una scaletta fatta da loro in cui, ora aspetta, te la sto cercando, scaletta, sì, scaletta. No, c'è una scaletta in bambù. Come questa, sì. Le potranno beneficiare circa 900 famiglie appartenenti alla fascia A e alla fascia B. Ah, il contributo affitti, qua stiamo parlando. Housing sociale, alle persone, per le persone che non accedono alle case popolari ma non hanno la possibilità per sostenere un affitto sul mercato immobiliare privato. Ringraziamo tra l'altro Dario Nardella per tutta la libertà che ha dato a Airbnb, che insomma, sì, grande. Sì, grazie, perché il mercato immobiliare privato ci voleva. Ovviamente si muove indipendentemente, no? Cioè, non è che lui può influenzare niente, no? Sì, non è comunque che... niente, no? Si diceva, aspettiamo queste notizie certe, queste, cioè, per ora è solo propaganda quella che sta facendo. Sembra un po' fuffettina. Quindi, ricapitolando, sì, stiamo aspettando cosa farà con questo finanziamento, farà? Se sì. Casa Pound è antifascista, esatto. Sì. E dopodiché? E dopodiché anche la nardellata della prossima settimana. La prossima settimana. Okay. Comunque, sul piano casa, io mi riprometto di trattarlo con la dovuta cura e anche con le dovute persone che ne sanno ben più di noi, certo, probabilmente certo. Anche ben più di Nardella. Sì, sì, per adesso volevo semplicemente lanciare, nel senso, questo interrogativo che molti si faranno, no? Che molti si saranno posti leggendo questi articoli da luglio, poi a ottobre, poi adesso siamo a novembre, è arrivato un altro ulteriore, no, non lo so, magari a dicembre ci troveremo a commentare un altro esimo articolo che parla appunto del piano casa, del fantomatico piano casa, il fanto casa potremmo la fanta casa chiamare. Fanta casa potremmo fare la fanta casa, la fanta casa, la casa di tuoi sogni, la fanta piano casa, sì. E la terza cosa mi è venuta in mente, cioè Piazza Tasso. Piazza Tasso. Giusto, Piazza Tasso, un bilancio su Piazza Tasso, vogliamo sì. Un dettagliato, sì. Insomma, comunque, sì. Se hai visto, è andato a presentare l'app Più Firenze a Barcellona. Sì, certo. Ho visto, se ne è parlato anche nella nardellata di settimana scorsa, che era in missione vero, a Madrid, malato. A Barcellona. Madrid. No, World, smart, no, a Madrid e a Barcellona, alla grande convention delle Smart City, dove Firenze ha scalato posizioni, certo. Posizionandosi al secondo posto, in classifica dopo Milano, tra le 33esime in Italia. Ma seconda in Europa. No, 33esimo è per benessere, il per secondo benessere, qualità della vita. Seconda città smart d'Italia. Seconda città smart d'Italia, da sottolineare, 33esima, sì. Nardella particolarmente orgoglioso perché è la prima città metropolitana, la prima città grossa, diciamo, in classifica per la qualità della vita. Secondo questi sondaggi non si sa mai chi è che li fa, cioè no, invece questo si sa chi è che l'ha fatto, la Sapienza, insomma. Sì, ma la Sapienza si è sbagliata, eh? Sì, la Sapienza evidentemente ma non sì, è sicuro. Si è sbagliata una volta, può sbagliare anche due volte. Ma sì, sì, appunto, si può tornare a quelle... Ma insomma. Ma tra l'altro chiedo scusa, è che io di città non ci capisco niente, stando in campagna... Quando certo. Scendo in città mi devo organizzare la settimana prima, perché certo. Altrimenti... Però Nardella lo conosci, se non mi sbaglio, lo conoscete? Darione, qualcosa abbiamo sentito in giro. Comunque, quando volesse tornare in Piazza Tasso, liberissimo, anzi io spero proprio che sappia bene dov'è, sappia i nostri orari e lo aspetteremo a braccia apertissime. Certo, certo, certo. Magari raccoglieremo anche qualche testimonianza dal campo proprio. Ora vediamo un pochino come ci potremo organizzare. Comunque niente, mando la sigla di uscita di Contro Dario. Tutti quanti immagino sareste stati contenti di essere su questa Dario stupenda. E niente, andiamo con Contro Dario out e poi con un pezzettino gentilmente che, offerto da Bricco da Grippo che si intitola Autumn Sweater, in tono con la stagione, diciamo. Ok, ciao. Ascoltato Contro Dario. We'll be right back. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. E rieccoci qua, Fuoco alle polveri numero 77 e immancabile l'oro dei Balcani, cari Wombat ascoltatori e Wombat ascoltatrici. Evviva! Allora, sono contento di essere tornato, dopo un pochino, di cosa parliamo oggi? Diamo alcuni aggiornamenti sul Kosovo. Quindi buono, torniamo a parlare della regione contesa. Il Kosovo, me la chiama la mia nonna. Kosovo! Esatto, torniamo a parlare del Kosovo, regione che si in lotta con la Serbia, non fisicamente perché la guerra è finita, la guerra del Kosovo che c'è stata, che è finita nel 99, ma i problemi non si sono mai risolti e già in altre puntate io vi ho parlato del Kosovo. Abbiamo parlato in sé per sé della questione, riassumendo un po' quali fossero gli scontri fra Kosovo e Serbia. Kosovo, che vi ricordo che nel 2008 ha dichiarato la sua indipendenza, ma non è riconosciuta solo da metà dei paesi NATO, tra cui l'America e, sottolineo, Stati Uniti d'America, proprio perché rientrano all'interno un po' delle notizie che vi porto oggi. Allora, l'ultimo screzio che c'è stato è l'attuale guerra sui dazi che si stanno che ha imposto il Kosovo rispetto soprattutto verso la Serbia. Dazi che oggi sono saliti al 100%. 100%? 100%, 100%. Si era partiti da un 10%, siamo arrivati oggi a un 100%. Questo acuisce lo scontro che sta avvenendo fra Kosovo e Serbia. In realtà, come vi dicevo appunto, le questioni arrivano da lontano, in particolar modo il grosso astio parte, al di là storicamente di come vi ho detto, terra di passaggio, Balcani, in particolar modo il Kosovo, che ha visto, i suoi territori hanno visto proprio anticamente la vittoria dell'impero ottomano, che poi arrivò fino a Varsavia quasi, e sancì il passaggio sotto appunto la sublime porta di tutta l'area, di buona parte dell'area balcanica. Momento storico in cui quindi la parte musulmana trova un appoggio contro invece la parte cattolica, greco-ortodossa e cattolica della zona. Ma in realtà poi insomma noi non torniamo troppo indietro, anche perché insomma sono cose che appartengono alla storia e che si sperava aver superato nei tempi odierni. Ma poi insomma alla fine nel 76, quando viene dichiarata la regione autonoma del Kosovo, la Serbia e l'Albania dall'altra parte non ci sono mai rimaste bene. L'Albania ha avuto una sua azione all'interno della guerra del Kosovo nel cercare di riportare il Kosovo, che è a maggioranza albanese, sotto la sua bandiera, ma oggi diciamo i movimenti dell'Albania, come vi ho già detto, non ci sono particolarmente attivi, mentre quelli della Serbia sì. Infatti, perché questi dazi di cui vi sto parlando? Questi dazi sono avvenuti per via di tutte le questioni che vi ho già raccontato, in particolar modo però l'ultima è stata l'interdizione nel mese di novembre di entrare a far parte dell'Interpol e della NATO da parte del Kosovo. E che quindi è stata respinta. Punizioni. Esatto. Perché vi dicevo gli Stati Uniti d'America sono importanti? Perché notizia che non vi avevo ancora dato, ma gli Stati Uniti d'America hanno da poco intrapreso la creazione dell'esercito ufficiale del Kosovo, che ha solo una forza di sicurezza interna, polizia fondamentalmente. Ok. Gli Stati Uniti d'America sono entrati in gioco annunciando, ora vi cerco la data di questo annuncio, eccolo qua, il 22 novembre. No, il 22 novembre sono i dazi, scusate, sono i dazi entrati, mentre l'esercito, attenzione, ora ci arrivo, chissà dove l'ho messo, mentre l'esercito allenato e costruito dagli USA, insomma, risale al mese precedente, ecco, al mese precedente, quindi alla fine di ottobre. Okay. Dice che sarà un processo lungo. Gli Stati Uniti di quest'anno, cioè nel senso, sì, sì, sì, tutto mese. Roba, okay. Roba sempre fresca. Vi parlo sempre di roba fresca. E quindi, ebbene, c'è questa costruzione, questa volontà di costruire, anche sebbene dichiarato nell'arco di un decennio, di questo esercito, ha chiaramente fomentato le ire della Serbia, che addirittura hanno accusato movimenti di truppe filo albanesi sui confini della Serbia, notizia che non è stata confermata, chiaramente sono probabilmente illazioni del governo serbo, ma ancora non lo sappiamo. Quindi questa è la situazione, quindi un esercito che si sta riformando e le tensioni al confine che stanno aumentando. Questi dazi sono solo l'ultima parte, c'era stato un tentativo di avvicinamento, che io mi sembra di avervi raccontato, dello scambio territori fra Serbia e Kosovo. Sì, mi pareva di sì. Della parte del nord, la regione come si dice, settentrionale del Kosovo, cosa che poi non è andata a buon fine. Vi ricordo che dietro, al di là di tutto, ci sono interessi palesi sulle risorse kosovare, cioè è un paese molto fertile, è un paese con delle risorse idriche che permettono una creazione di energia idroelettrica, di cui la Serbia per un terzo del suo fabbisogno si serve proprio dal Kosovo. Quindi ci sono proprio interessi non solo politico-religiosi, etnici, che insomma risalgono poi a tutta la vicenda, tutta la guerra balcanica. Volevo però in ultima istanza, quindi oltre a dirvi che seguiremo questa questione con l'uso dei Balcani, cioè come andrà avanti, sperando che non finisca in un ennesimo conflitto. Sono venuto in possesso di un testo che ho trovato una bancarella, che si chiama Kosovo 1999, le operazioni belliche di una guerra moderna, di Mursia, che fondamentalmente ripercorre tutta la questione della guerra del Kosovo proprio. E portava alla mia attenzione, cosa che effettivamente tutti sappiamo, però spesso non ci riflettiamo più perché forse è troppo lontano nel tempo, anche se in realtà parliamo di veramente 20 anni fa, nemmeno 20 anni fa. 15 anni. Nell'introduzione, il libro, che comunque è un saggio militare, quindi va preso chiaramente con le pinze, però dice: il problema maggiore è che un intervento armato, sta parlando appunto del ruolo della NATO all'interno della guerra del Kosovo. Il problema maggiore è che un intervento armato in un'area di conflitto implica il rischio di perdite umane, rischio che in maniera molto ipocrita nessuna realtà interventista si sente però in grado di pagare oltre certi limiti, peraltro molto bassi. E ciò è in perfetta antitesi con le parti in lotta che in molti casi, a dispregio di ogni umana razionalità, contano proprio sull'aspetto cruento del confronto per scoraggiare un possibile intervento esterno. Ecco, il dato che parte da questo assunto è che la guerra del Kosovo è stata una delle prime guerre moderne, in realtà. Le guerre, cioè, combattute non più con grandi truppe di terra che avanzano e conquistano. Ma con interventi spot, dici? Interventi aerei principalmente, okay. Cioè interventi da lontano. La guerra moderna si basa, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche poi in tutte le guerre, che parte già probabilmente, direi, dalla Corea, Vietnam, sì, sì, sì. Quindi l'uso spregiudicato di bombardamenti e a discapito invece dell'uso di truppe, poi muoiono e quindi devi in qualche, perché la guerra è, ci sono, certo, i morti, certo, però poi devi davanti all'opinione pubblica dire sì, sono morti questi soldati, fregandosene poi, lo sappiamo, di poi delle morti che invece civili vengono fatte, certo, grazie a questo uso preminente di attacchi da lontano. È abbastanza agghiacciante la guerra moderna, no? Cioè, assolutamente. Finché si sgancia una bomba da un aereo, credo sia più facile che ammazzare una persona vis-à-vis, no? Sì, lì per lì magari sì. se ne parlava anche a Hack Meeting un paio di anni fa, no? Si parlava della cyber war, diciamo, certo, quando si arriverà a pigiare un pulsante. Bravo. Per andare, e infatti qui in questa guerra si vede anche gli inizi della cyber war, effettivamente, perché l'uso di tecnologie per rubare i piani militari avversari è iniziato in maniera massiva proprio proprio all'interno di questa guerra. Okay. E quindi si può vedere le ipodromi proprio della moderna guerra da lontano, quindi quella che spari coprendoti un po' gli occhi, proprio nella guerra del Kosovo. E in tutto ciò quindi poi c'è le nostre piene mani del loro governo D'Alema nei bombardamenti, che le basi italiane furono le basi più utilizzate all'interno di questo conflitto. Anche per vicinanza, soprattutto per vicinanza. Sì. E anche di proprio una flotta di bombardieri italiani. Boia. In tutto ciò. Ci sono numeri sulle perdite di questa guerra che parlano di alla fine decine di migliaia, che dice davanti alla prima, alla seconda guerra mondiale non è niente, ma di cosa ragioniamo? Le morti sono sempre morti. Boia. E sono tante, mi sembra. E sono tanti, e poi sappiamo benissimo che in queste guerre tra Bosnia, Serbia, lì ci sono state una quantità di vittime civili ancora incalcolate. Quindi niente, terremo d'occhio la situazione come sempre attraverso loro i Balcani nei nostri vicini, in particolar modo tra Serbia e Kosovo. Vediamo come andrà avanti la questione, appunto, di questi dazi, come ci sarà, come reagirà e come reagirà anche l'Europa, perché per ora sta zitta, non dice niente, anzi non si è schierata dalla parte della Serbia, dicendo che non è giusto, il libero scambio ci deve essere sempre, bla bla bla. Però poi d'azioni, insomma, esattamente, quindi bene. Vi terrò aggiornati. Niente, non vi dico altro per oggi. Ci sentiamo settimana prossima. Beh sì, è il momento dei saluti, direi. Sì, gliene andiamo con sigla out del nostro Urlo dei Balcani. E poi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo per la numero 78 di Fuoco alle Polveri. Abbiamo avuto oggi grandissimi contenuti, ACAD, ambulatorio di medicina nuovo, nardellate, insomma, aggiornamenti kosovari. Sì, l'abbiamo portata a casa. Insomma, l'abbiamo portata a casa. Se poi non va garbata, cazzi. Scriveteci a posta Wombat. Sì. @lensiberia.net. Bau. Ottimo. Wombat, sì, Wombat. Yuri! Oh! Cazzo! Vai che comincia! Fuoco alle polveri! Fuoco alle polveri! Radio Bomba!